Che succede, amici? Ma questa è la diretta, è il mondo reale. 100 Celle Avengers, in diretta, sigla! Ed è successo veramente, veramente siamo in diretta per la prima volta oggi 6 maggio 2021 con 100 Celle Avengers. No, non fa così, ti giuro che è vero, non è la solita esercitazione, ti giuro che questa volta io non posso farci niente, se tu dici qualche cagata io me la tengo in diretta. No. Va bene, forse potrebbe essere che non siamo in diretta, ci sono arrivati dei segnali discordanti sul fatto di esserlo, ma noi comunque lo facciamo come se lo fosse. E quindi che cosa vado a dirti? Che oggi abbiamo tutto il nostro palinsesto, che normalmente viene fatto così volgare in post-produzione, tutto in diretta con le cappelle. E quindi abbiamo la rubrica dei solisti in diretta, abbiamo la rubrica della Mesopotamia, no, non è vero, non abbiamo registrato, abbiamo la rubrica di Birgi e i Beatles in diretta, ma soprattutto mi sono stancato. Allora no, calma, volevo un altro tipo di radio, un tipo di radio paciosa, quella che tiene compagnia, quella che non abbiamo mai fatto. E rifacciamo tutto da capo, siamo qui, 100 Celle Avengers, Radio Forte, con i nostri amici, senza riverbero comunque, però, però mi piace che abbiamo sottolineato il fatto di non essere soli, perché qui c'è Silly. Buonasera a tutti! Ma qui c'è anche Virgi. Buonasera. Ma qui c'è anche Violet. Ciao. E soprattutto c'è Betta. Danielson, sono tuo padre. E soprattutto c'è Iron Man, che sembra non essere contento. Mi trovo un po' ammosciati. Ho preparato un discorso, non so se vi piace. Ve lo dico, quando fa così c'è un po' da assecondare. Io scusate, ho fatto un inizio che non era più queste cacate così, fuochi d'artificio, alla stress. Alla fratelli miei, decisi a sfidare la tirannia. Vedono i vostri occhi. Certo, chi combatte può morire. La stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Senza libertà cosa farete? Ci sarà un giorno. Fra molti anni da adesso. Ma non è questo il giorno! Agonizzante in un letto. In cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Chi fugge, resta vivo. Ci sarà l'ora dei lupi. Almeno per un po'. Ma non è questo il giorno! Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Ma non è questo il giorno! Vabbè, io penso anche meno poteva, cioè io sono contento, grazie comunque che hai fatto questa cosa, cioè penso che anche voi, certo, siate con... siamo cioè, carichi, cioè, ispanico, ci ha aiutato questa cosa sicuramente, ma comunque l'importante è che non siamo soli, siamo una relazione, fate dietro a ognuno di questi rabarbari si nasconde una persona vera di cui parleremo nella prossima, ma ora Coma Cose, post concerto. Volevi fulmini e tempesta? Sì. Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo. Sì. Tanto è tutto ciclico, ogni mattina si riduce a una Sarajevo sulle mie tapparelle che il sole mi traglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango. Challenge. La luna si riflette nel naviglio gance. Se, se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te. Se, se, can che abbaia non moruder. Quasi inciampo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Io Spotify, tu Spotify stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira, io la vado ad occupare. Io rimango. Forte, 100 celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Ed era post concerto dei Coma Cose. Ma che... quindi ha risposto alla domanda dove era il suo bicchiere, maestro? In parte. Okay. Io non so se immedesimarmi in colui che abbandona il bicchiere o nel bicchiere stesso che è dipinto come un diamante. Comunque, vabbè, ci piaceva questo pezzo perché comunque non è... non molti hanno messo la parola centro sociale negli ultimi anni, dai 99 passi a oggi, se ci fate caso, anche se lo fanno in maniera un po' diversa, comunque dipingono così un'atmosfera di post concerto, appunto, che ci manca e che un pochino me la sono sentita, e quindi niente. Poi io i bicchieri abbandonati me li vado a raccattare tutti, ma è un'altra roba storia. Ma anche in epoca Covid? Assolutamente, è proprio una pratica Covid. È il suo vaccino, cioè così funziona. Comunque, capito? Passiamo ad altro. E quindi, cioè, in questo momento, che cosa possiamo? No, cosa? Non siete pronti. Voi abbandonerete la diretta. Oggi siete tutti, ma domani potreste non esserci. Il pessimismo mi sembra la chiave giusta per portare avanti questa diretta, Iron Man. Verrete profilati. La vostra voce verrà campionata e la vostra intelligenza riprodotta da un algoritmo. Un algoritmo che riproduce la nostra intelligenza. Vabbè, un'intelligenza artificiale particolare che riproduce una demenza naturale, ma sei sicuro di riuscire a farlo? E comunque mi stai mettendo a disagio, ci stanno gli amici, La cosa riguarda anche te. In che senso? Mi stai a profilare? Ma non c'è problema, io guarda... Non c'ho problemi, mi vuoi profilare? Vai pure. Alexa, procedi. 15 marzo 2014. Apro. Presentazione del progetto Spazi Musicali Autogestiti. Ah, proprio un'interrogazione di storia. No, va bene, va bene, allora ci sto. Allora, ricordo l'anno 2014, che fondamentalmente le Idi di marzo fanno nascere la scuola di musica. Il progetto si presenta questo quartetto di maestri, tra cui Di Sciullo, Di Bianca, Carlo Ferro, detto Charles Iron, e il maestro Leonardo Giuntini, con il loro progetto di musica che da lì prende corpo e si alimenta soprattutto di questi open day. L'open day era il momento in cui si apriva, e il nostro maestro Di Sciullo amava fare il discorso che è passato un po' alla storia come I have a dream, non so, per dire il calibro dello speech che comunque lui riproponeva negli anni. E lui proponeva la domanda alla folla: secondo voi ragazzi, che cos'è la musica? Allora tutti cercavano di dire, fate un po' Rabarbaro, scusate, Rabarbaro. La so io, tutti davano una risposta, e anche io che ero in mezzo ho dato la mia risposta da fonico, è una frequenza, oscillazione di chi diceva le note, chi diceva il ritmo. Poi a un certo punto lui ha riassunto la cosa: ma secondo voi quindi la musica è ritmo o note? Perché chi ha detto note, chi ha detto ritmo, secondo voi cos'è più importante? Allora fece questa cosa, prese un pianoforte e ci propose questo indovinello. E chiedendo a tutti: che cos'è questo? Che cos'è questo? E nessuno ovviamente sapeva, ovviamente non suggerite. Poi disse: ma se invece faccio... E non sono a caso. Ma questo è Jingle Bells, maestro, dissero tutti in coro, ovviamente. Ma è Natale? Dire. Ma è questo? E allora tutti capirono che la musica ha bisogno più del ritmo che non delle note, come tutti invece dicevano le note, vabbè, insomma, Di Sciullo ci ha lasciato, detto in discussione, con questo grande sapere. Era importante che ve lo dicessi per esteso, lo so che si è estesa molto questa cosa, ma come sono andato a Iron Man? Va bene, posso passare a presentare almeno uno degli amici che ci sono oggi? Alla mia destra, a colorare i suoni con le frequenze appunto di cui sopra, c'è il vecchio Silly. Oh, buonasera a tutti, salve, sono Silvano e sono al mixer. È la prima volta nella mia vita e sto cercando di capire, ma la cosa che mi piace tanto è mettere questo effetto qui che non ho capito bene a che serve. Abbiamo Herbert Ballerina, non lo sapevo, in console. Comunque Silly parla con varie voci, è riposseduto, ma con la sua voce riposseduta può anche dirci di cosa disponiamo oggi a livello di strumenti di comunicazione interna e esterna. Allora, voi non lo potete vedere, però praticamente qui abbiamo un computer che è un Mac, che è quello del maestro, poi abbiamo uno schermo, poi abbiamo un mixer, poi abbiamo un preamplificatore, poi abbiamo due schede audio, forse anche tre, perché c'è pure quella interna, poi abbiamo una tastiera. Vabbè, insomma, abbiamo un sacco di cose con cui possiamo fare tante belle cose, soprattutto se il riverbero che mi piace tanto. Ma soprattutto abbiamo un canale Telegram nuovo di pacca. Certo, abbiamo tutti i nostri contatti. Come si chiama questo canale di Telegram, maestro? Lo dica lei. Se qualcuno proprio ci tenesse a commentarci, a partecipare, a supportarci, questo canale lo trovate ricercando Radio Forte 100 Celle Avengers sul vostro pratico cellulare. Allora, maestro, io mentre lei lo diceva l'ho aperto, ma qui è pieno di lamentele questo canale e manco abbiamo iniziato a fare la puntata. Ma com'è possibile? Non ho capito che dicono, io perché non ce l'ho davanti. Guarda, allora qui dicono, ma è pieno di lamentele per la chiusura dei 100 Celle Awards. La gente vuole sapere com'è finita. Avevi detto che c'era un'altra clip, c'erano altre cose da mandare e noi non l'abbiamo sentita. Noi lo sai che abbiamo, guarda, un pubblico esigente. Sì, ho capito, ma se non l'abbiamo fatta sentire c'era un motivo, cioè. Che dici che è il caso che la famo sentire? Vabbè, noi non vogliamo passare come una radio che censura. E allora sentiamo com'è andata a finire. Caro Iron Man, siamo giunti quasi alla fine. È il momento della più inconfessabile e controversa delle categorie. Amici delle guardie. Grazie orchestra per la preziosa sottolineatura. Guarda, questa premiazione mi sento di cederla a te, Iron Man. Non capisco. Intanto nessun ospite ha accettato di venire. E poi mi sembri più adatto, hai le physique du rôle. Non ti preoccupare, devi solo dire the winner is... Non adesso, solo dopo che avremo presentato le nomination. Cominciamo con i più bassi in grado, i pizzardoni. The Chips. Ai Chips va il merito di aver fatto conoscere al mondo l'esistenza di autostrade a 8 corsie, di cui se no si sentiva solo parlare. Qualcuno negava potessero esistere. Cosa ancora più importante, Frank Ponciarello e compagni ci hanno insegnato che le automobili esplodono sempre. Senza se e senza ma. Appena hai fatto il botto, hai circa 10 secondi per abbandonare il mezzo prima che diventi un fungo atomico. Questa è scuola. CSI. E dal surrealismo anni 80 veniamo a quello degli anni 2000. CSI, nelle sue varie versioni, ritrae il mondo della cosiddetta scientifica, con le sue impronte digitali, le analisi del DNA e le ricostruzioni dei fatti sulla base di una briciola di cracker. La cosa ovviamente viene cavalcata al punto da sfuggire di mano, non tanto per l'immagine onnipotente dei medici forensi che se ne ricava, quanto per le minchiate tecnicamente impossibili e professionalmente frustranti, almeno per me e per tutti i fonici, che devono sopportare ste scene in cui da un file audio si trova il nome dell'assassino. Montalbano. No, dico, mica potevamo non menzionare il commissario italiano per eccellenza. Personaggio letterario ideato da Andrea Camilleri, forse proprio grazie a quest'ultimo, Montalbano riscuote un inaspettato successo anche tra i più insospettabili. Una ventata di aria fresca e autoironia per chi è cresciuto accostando alla Sicilia solo e unicamente il commissario Cattani e il tema della piovra, che io ancora mo sogno la notte. The Shield e TJ Hooker. Altra nomination doppia Iron Man, questa volta insieme perché queste due serie rappresentano un po' l'alfa e omega della narrazione riguardante gli uomini in divisa. Da una parte abbiamo TJ Hooker, ex capitano Kirk di Star Trek, che rappresenta il classico poliziotto anni 80, personaggio positivo, senza compromessi, per proteggere e servire, dedito alla famiglia. Dall'altra Vince Mackey, The Shield, l'emblema del poliziotto corrotto fino al midollo che vive di efferatezze infamate, motivandole anche lui con la più classica delle frasi: farei tutto per i miei figli. A distanza di 20-30 anni l'una dall'altra, queste due bizzarre visioni concorrono insieme. Siamo soli, Iron Man, vai. And the winner is... The Troops. Vincono i pizzardoni, incredibile, The Chips, Frank Ponciarello. Ma un momento, vedo Baruffa dalle parti dell'orchestra? Direttore, che succede? Altro brano. Molto bene, Centocelle chips, Logic chips, Orchestra. Chips. Più timore se gli occhiali e porta i guanti. Su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale. La loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono i ribelli che passano con rosse 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male. Il bene è minacciato da un verbale. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro. Oh no! Andavo a 100 all'ora per baciare la bimba mia. Quando ecco che a bel punto mi ritrovo circondato. Credevo d'essere solo e disturbato nella via. Credevo di fuggire alla vendetta dello Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per l'estate senza l'assicurazione e che farà gonfiare le vene del mio collo, gridando tutti in Vespa senza il bollo. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro. Ausiliare al fianco è un'altra situazione. Per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci ci sarà più futuro. Vabbè, secondo me pure potremmo pure non mandarla sta cosa, non so, a te invece sei contenta. Le sigle, ma c'erano i meglio bassi. Vabbè, poi discutibile clip, ovviamente ci sono, cioè, l'Italia si spacca in due. Comunque possiamo andare avanti con la puntata, te che dici Iron Man? Dobbiamo profilare Silvanone, via. 28 giugno 2015. Primo solista accompagnato da esterni. Io non posso suggerire, Silly. Tu sei preparato? Ma io non ho capito che mi devono fare. Ma che è sta profilazione così? Io mi sto spaventando. Comunque, allora, no, praticamente è stato il primo giorno in cui c'è stato effettivamente un solista. E pensa che io ho addirittura trovato un contributo nel tour disc che sto spulciando da 20 minuti. E ho trovato questa roba qui con questo strumento strano, la kalimba. Ma dobbiamo spiegare che cos'è? Che dici? Forse non abbiamo il tempo. Abbiamo una voce più autorevole. E chi è? Loro si esibiscono insieme con Emanuela, uno strumento. È il maestro di Sciullo. Damo due colpi di strumento così. Atmosfera. Che si chiama Kalimba. E questo brano qui si chiama Pet Lifesaver dei Giardini di Miro. Capito la Kalimba? Che bella. E quindi Silly? Cioè io non ho capito veramente, questa sta suonando col piano dei pollici, quello che te vendono pure quando vai al mare, quella cosa piccola della noce di cocco. Sì, per fare un'analisi dello strumento, grazie comunque per la didascalia. No, scusa, è che sono batterista, mi piace parlare di roba che comunque, che insomma suona. Da sottolineare ci sta che il primo colpo di mano da parte della categoria dei solisti al saggio di musica. Ma sti egoisti, ma perché vogliono suonare da soli? Che invece di suonare con noi, che siamo tanto bravi, si portano gli esterni. Quel giorno fu la Kalimba e fu un bel momento, tutti insomma stupiti. Ma io, cioè, penso di non poter parlare solo io di questa cosa, ma soprattutto ci vorrebbe un protagonista del mondo dei solisti. Chi meglio di una solista, cantante, chitarrista, Betta? Oh, a me solista ma ha mai detto nessuno, eh? Vabbè, mo perché io, cioè, ho spinto per denigrare questa categoria che in realtà è l'ossatura della scuola di musica. E infatti c'è chi c'ha un piede in una staffa, chi in un'altra, chi in tutte e due. Oh, sono male ma sono, E quindi come prima... Come presentare meglio questa categoria con un pezzo interamente realizzato dagli allievi della Scuola di Musica Forte, coordinati dalla bravissima maestra Serena Locurzio. Ecco, vedi i solisti come poi... no? Vabbè. Certo, è la mia maestra. Salutiamo la maestra Locurzio che non è potuta essere qui, comunque sì, hai fatto la solita, insomma, solista col piede nella staffa dei solisti. Ovvio. Comunque, ascoltiamo I'm No Good di Amy Winehouse. Love me out like like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can get joy. You say when we married, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Terzetto, quartetto, ce lo vuoi descrivere? Chi ha suonato? Ci fu Manuela alla voce, la nostra Virgi al basso. Buonasera. E Raffaella alla batteria, tutta la sezione ritmica. Molto bene, adesso verrai profilata. Oh mio Dio. 14 giugno 2020, prima direttona dalla piazza d'armi, su Radio Forte. Oh, e questo è facile, e questo è facile. Ah, c'ero. Ah, che momento particolare. Non solo fu la nostra prima diretta in radio, non solo fu il primo nostro saggio virtuale, perché sì, andò soltanto in radio, ma fu la prima volta che suonavamo insieme dopo tanti mesi, dopo il lockdown, dopo il virus, la paura, la confusione. E fu una cosa che personalmente mi rimise in asse, poter tornare a fare una cosa del tutto normale dopo una situazione così d'emergenza. Ti dava la sensazione che potevi continuare, nonostante quello che cambiava intorno, a fare quello che amavi, anche cambiando un po'. È come la storia del pittore senza mani che dipinge con i piedi. Non ci fate uscire? Bene, maschera esterna e suoniamo a casa. Non possiamo avvicinarci? Suoniamo a distanza, all'aperto, nella piazza d'armi. Non possiamo provare? Ma noi suoniamo senza prove, in diretta radio, senza paura. È una cosa molto rincuorante, non trovi? Cioè, capito, Iron Man, te sta a fare discorsi di incoraggiamento, cioè, mi sembra che... D'altra parte noi la conosciamo sì come chitarrista, cantante, ma fondamentalmente in redazione come problem solver, nonché regina delle arti nerdistiche. Tu stai in assemblea che discuti un problema e senti a un certo punto e è qualcuno che sta cercando su un forum coreano la risposta al problema che tu stai banalmente raccontando a voce. Quali problemi avete? Vi si è rotta la stampante? Vi si è rotto il wifi? Avete un'infestazione di cinghiali in terrazzo? Esatto, e questa è Betta, che in effetti mi sembrava molto molto preparata, quindi potresti addirittura aiutarci a introdurre un altro personaggio per il quale comunque si sono mosse diverse personalità, nel senso che è una personalità che già abbiamo qui in radio, quindi io, cioè, bando alle ciance, c'è un sottofondo che la dice lunga. E è su queste note che introduciamo il personaggio britannico, ma in realtà nostrano, di Virgi. Mi sentivo un po' chiamata in causa. Ma questo non vuol dire che ci dobbiamo, ecco, grazie Silvia, che ci dobbiamo deprimere per questo, anche se in effetti c'è qualcuno che si è sentito male a Edimburgo. Pare che Filippo! Pare che Filippo non abbia letto la notizia che Virgi avrebbe condotto i Beatles in diretta, ma questa è un'altra storia. Era troppo per lui. Ma, ma quindi è colpa tua anche quella cosa della papaya? Mi sa che mi devi spiegare sta cosa. Ma come? Non lo sai? Filippo, a un certo punto cominciò a essere considerato una divinità. Ma non come quando dici sono un dio a fare il risotto con la zucca. No, no, proprio una divinità. C'è una piccola popolazione in un'isoletta minuscola del Pacifico, la popolazione di Tanna, che cominciò a considerarlo una divinità perché aveva una profezia per cui diceva che il dio Vulcano aveva un figlio che era destinato a sposare una donna molto potente in un paese lontano che avrebbe sparso i semi di Tanna nell'impero britannico, e lo identificarono con Filippo. E a un certo punto... Beh, mi chiaro. Cioè, poi era di male del colonialismo. Chi se no? E c'era chi lo chiamava nazista. Cioè, capito? Veramente, vabbè, qua facciamo verità, facciamo luce su queste cose. Virgi, capito, sei contenta, sì, che ti abbiamo steso sto tappeto? Calcolando che poi c'ho origini gallesi, è tutto perfetto. Dici che era troppo? Comunque, per il momento pare che ti è dato lanciare il prossimo pezzo, perché siamo sempre nella categoria solisti, di cui tra l'altro non abbiamo sentito la sigla. Vuoi lanciare prima la sigla? Lanciamo la sigla, certo. Io ci sarò Cioè, sono talmente tanti gli strumenti a disposizione che uno si dimentica, si dimentica la sigla. Perdonate, cosa sentiamo adesso dei solisti, Virgi? Adesso sentiamo uno dei solisti, Francesco Juan, quindi uno dei primi solisti, lo dice già il nome, con Steady As She Goes. Yeah. Steady As She Goes di Francescone. E quindi Virgi, è arrivato il tuo momento, il momento del profiling. 7 luglio 2017. Primo coro della scuola di musica. Oh, e chi è toccata la domandona? Una domandona che, a cui rispondo con molto piacere, perché non posso far altro che parlare della sorpresa che ho provato nel momento in cui l'ho sentito. E perché non partecipai, ma vidi per la prima volta una fila di persone che cantò ovviamente Only Unity Love, quindi catturando immediatamente la mia attenzione. È strano che hanno attirato la tua attenzione proprio lei. E da quel momento io capii che era una delle cose che volevo fare, perché era veramente, veramente un grande esempio di gruppo. E lo hai fatto? L'abbiamo fatto insieme, proprio perché è un grande esempio di gruppo, con nell'anno successivo, in cui poi abbiamo messo su l'opera che tutti conoscono, che è il famosissimo Cicucu. E la regia ha un contributo? Riproduco. Il famoso Cicucu. Va bene, io direi che ci hai convinto comunque. Iron Man, tu sei convinto? Dimmi di sì. Dici sempre questa cosa. Comunque, diciamo, prendiamolo come un sì. E quindi posso dire con un certo orgoglio, e anche col riverbero digitale analogico insieme, che a questo punto lanciamo la sigla che tutti volevano sentire. Sì! I Beatles. Grazie sempre per questa sigla, ti ringrazio ogni volta che va in play. Sì, ma ti sei imparato tutte le canzoni che ci stanno dentro oppure... No, e ci faremo il concorsone. Indovina tutti gli Who dei Beatles, della sigla dei Beatles. Bene. E vinci... Concorsone partito, sì, sono d'accordissimo. Però non c'ha il nome comunque la rubrica, questo lo vogliamo dire? No. John Lennon è uscito dal gruppo? Fa schifo! Va bene, va bene. Vabbè, insomma... Tutti si chiedono per quale motivo io stia sempre cercando di parlare il più possibile dei Beatles. Mettiamola così. Ma no. Appunto. Tutti, e sto indicando alla mia destra. Assolutamente. La risposta non è una risposta oggettiva. Però se parliamo della musica del futuro rispetto alla musica dei Beatles, ovviamente Calma. I Beatles non si sono inventati tutto quello che c'è stato dopo, ma il futuro ha ripreso tutto quello che poteva prendere dal gruppo. Quindi oggi ci concentreremo sul parlare di una delle ultime canzoni riprese dalla storia della musica del gruppo dei Beatles, ovvero Tomorrow Never Knows. Aia. Aia. Tomorrow Never Knows è un esempio molto particolare di musica del 1966. È stata la prima canzone registrata dell'album Revolver e possiamo dire che è una delle più particolari che abbiano mai fatto. Fondamentalmente si tratta di una sovraincisione, diciamo, di tutta una serie di loop, non soltanto perché ovviamente la base melodica e ritmica rimane, ma è una sovraincisione che ha portato il gruppo a collaborare pesantemente. È stato chiesto. Tocca stare insieme. Che palle, tocca collaborare. Sì, beh, già iniziavano. Vabbè, i primi disco, dai, poi me ne vado. Dai. Già iniziavano i primi scherzi, ti preoccupa. Ma diciamo che hanno dovuto fare i compiti a casa. Si sono ritrovati a dover registrare delle parti che gli potevano dare soddisfazione. Ovviamente abbiamo avuto il nostro solito Paul McCartney, che ha fatto i mega compiti a casa, ovvero ha portato tutta una serie di loop di voci. E se ascoltate il pezzo per bene, all'inizio sentirete un suono di gabbiani, quello è Paul McCartney che ride. Abbiamo come esempio di George Harrison, uno dei primi esempi di musica indiana nelle canzoni dei Beatles, perché lui registrò degli strumenti indiani da sovraincidere in questo pezzo. Ma come suona male da Dio. Esattamente. E abbiamo uno dei primi esempi, se non sbaglio il primo esempio, no Silvano? tu stai parlando del primo loop di batteria, vero? È il primo loop di batteria della storia, ma credo. È una particella di acqualete questo. scusate, prego. Adesso prendo la mia vera voce. Allora, parliamo un po' di questa cosa, Virginia. Cioè, in realtà è stato il primo loop di batteria, ma in realtà Ringo l'aveva suonata tutta la canzone, giusto? Esattamente, hanno avuto da Ringo l'idea di registrare il primo loop di batteria, perché Ringo, mentre registrava la canzone, in realtà suonava già un loop, già fatto, diciamo, con tutti i crismi. Quindi era già molto molto molto avanti il ragazzo. Per quanto riguarda la voce, noi possiamo avere il fantastico esempio del cantante della canzone, ovvero John Lennon, che aveva deciso di riprodurre la voce del Dalai Lama, che parlava dalla cima di una montagna. Ma abbiamo una storia fresca fresca di storia di fonia su questo argomento. E penso che... No, c'è l'indignazione da parte mia, più che la storia di fonia. Però vabbè, io lo assimilo questo fatto, perché non vorrei che di prima puntata subito... Cioè, intanto apprezzo che oggi ti stai chiamando tutti nome e cognome. Cioè, non famo la rubrica John ha detto, poi George ti ha risposto. Non me ne era però accorta. Ringo non ci sta. Oggi sei seria. Stranamente sei seria. Sembri meno fan, meno, capito, più obiettiva. È la diretta. Wow. Bravo. Rimedierò. Esatto. Comunque io invece una cosa brutta volevo dire, perché comunque questa storia del pezzo del Dalai Lama, delle voci strambe, mi è stata riportata quando ho studiato fonia appunto nel Massachusetts, quando appunto questo mio maestro ci raccontava che John Lennon si era fatto appendere a testa in giù per registrare con due microfoni lui mentre dondolava, simulare, insomma lì mi aveva intortato. In realtà poi sono andato a vedere, perché poi uno ci va, e pare che insomma la storia è stata che lui insomma voleva sì fare questa roba, poi ci hanno anche provato, ma fondamentalmente poi George Martin, cioè il produttore, quello che poi alla fine veramente fa le cose, gli ha detto: senti, vabbè, mo, tranquillo, mettite un attimo da parte, ci pensiamo noi. E hanno usato un coso che ruotava lui, cioè un altoparlante rotante, cioè non c'è bisogno di appenderti, ruotare come un minchione, cioè c'è stata la tecnologia. Però comunque è passata la storia questa cosa per essere stata fatta da John Lennon in questa canzone che adesso andiamo a sentire, Virgi, di cui puoi, se vuoi, dire qualcosa di bello, perché adesso io l'ho un po' affossata, ma no, posso dire semplicemente. Posso dire semplicemente che ascoltandola sarebbe importante non chiedersi mai più per quale motivo i Beatles non hanno fatto abbiamo più concerti silenzio, live. Abbiamo messo il silenzio per drammatizzare. Certo, certo. Yeah. siamo di nuovo qui in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Siamo arrivati alla nostra Violet. Ciao. Woo! Yeah. Incredibile, incredibile. Sì. Oltre che eccoci, cantante e chitarrista, che comunque ce n'erano tanti. Ce n'erano pochi, c'era la richiesta. Lei è anche l'esponente del mondo dell'insegnamento. Sì, faccio la maestra, che piace tanto a noi questa parola qui in questo ambiente. Sì, però sì, faccio la maestra. Quindi per disambiguazione diremo che non è la professoressa Viola infettivologa che spesso si sente da Lily Cooper, ma è la maestra Viola. Una semplice umile maestra. E Viola è il nome. Sì. Molto bene, detto ciò, parte il profiling di Violet. 24 febbraio 2019. Stick B compone la prima strofa rap originale della scuola di musica. Attenzione, sì, siamo arrivati al 2019 e una serie di prime volte. Allora, iniziamo col dire che il primo saggio invernale e in maschera, perché a ridosso di febbraio, intitolato San Romolo. E un'altra prima volta, e poi forse anche l'ultima, comunque una canzone portata da, dal gruppo appunto degli allievi di Musica Forte, accompagnati dal maestro, che praticamente questa canzone, che poi è dei The Roots, intitolata The Seed, viene cantata da un allievo in particolare, Matteo, detto Stick, che diciamo decide di modificare la parte rappata inventando delle parole sue e componendo, ecco, la sua parte rappata in salernitano. Ma tipo Willy il principe di Bel Air? E diciamo sì, vabbè, no, non ha fatto dai la fine del principe di Bel Air, come ci ricorda la scorsa puntata di 100 Celle Avengers. No, è stato bravissimo. Ah, e volevo anche ricordare che c'era anche, diciamo in concomitanza, Angela, un'altra allieva grandissima di Musica Forte, che accompagnava Stick nelle voci di risposta alla parte rappata. Le cosiddette sporche, e anche lei salernitana. Servizio completo. Servizio completo. Ma tutti da Salerno. Tutti da Salerno. Incredibile, ma c'è questa influenza salernitana, non si sa il perché al forte. Voi pensavate che San Lorenzo fosse piena di calabresi invece? Invece ci sono nascosti anche salernitani. Oh no, ce n'è un altro. Negli anfratti di questa città. E quindi cosa ci sentiamo? E allora ci sentiamo The Roots e con The Seed. Gente spazio per prezzi, sold out, c'è sta messa. Non rispondi troppo a finesse, piglia sciate ragione per fesse. Il despone compone perché sopravviva a mano una testa. Muove sagità andata in bestia, metta forza da voce a fa che se. Prima parte, se ne parla, santo manna già figlia in sua mani. Prima parte, te ne mani, quando è giovane se ne ne parte. E se è fatto che si guadagni, ed è quello che guarda castagni. Si considera che una cagna, che sta dritta ma senza fatale. Spada, buona cagna, viene a salutare una certa ambiente. Se vuoi stare tranquillo senza stringere niente, settimana non porta a niente. È evidente che il falso sorprende, ma può essere che conto corrente. mi spune chi parla e chi sente, e più logica è essa presente. Non sapete chi scappa, non sapete chi scappa, non so lei venica a deposiente, nella fine di dito non sta presente. Chi è sai? Oh no! Faccio pratica, se funziona può essere che è buona, ma è che in pratica non si ostacola, senza fine vuol dire che funziona, ma che in pratica fa... yeah. Pensa, e che in pratica faccio pratica. Bentornati su Radio Forte. Bentornati certo, tutti. Avengers. Bentornati. Adesso basta, non devo fare più la mia voce capito, stupida. Silvano oggi ha deciso di presentarsi con la voce di... così. Vabbè, però era un bel personaggio, non lo abolire del tutto. Quale sarà la mia vera voce? Diamogli anche un nome. Comunque eravamo qui con Violet, che era stata profilata, ha risposto piuttosto bene, diciamo. Grazie. Che si era preparata non superato. Poco. E quindi ha diritto di esporci il contenuto che ha portato da casa, perché ognuno qui bussa coi piedi. Virgi è arrivata con la sua rubrica dei Beatles. Violet, tu cosa ci hai portato? La poesia. No, scusa, lo potresti ridire? Aspetta. La poesia. Okay, ok, ok, ok, siamo calmi. No, non fa così. Noi come redazione siamo abbastanza preparati. Sicuramente tu, essendo la maestra viola, sei qui per parlare ai più piccini. Abbiamo un sottofondo. Non credo. Vi sorprenderò, perché sì, è vero che faccio la maestra, ma mi dedico anche ad altro. Da maestra però mi sembrava giusto, ecco, dare il mio contributo con la poesia. E quindi ho scelto però una poesia per adulti, perché ecco, siamo in fascia, non lo so, che fascia siamo? Iron Man per adulti. Comunque, Iron Man, metti una base adeguata per favore. Allora, Iron Man, dai. Per oggi Violet, la redazione ti può offrire questa, che è la base per i momenti seri. Per favore, ripeto. La passione, questa poesia è sulle passioni. La passione come una fiamma perenne, e intitolata Sei tutta spume. Sete di te mi incalza nelle notti affamate. Sei tutta spume, agili e leggere, e i baci ti percorrono e ti irrigano i giorni. Il mio gesto, la mia ansietà pendono dal tuo sguardo. Vaso di risonanze di stelle prigioniere. Son stanco, tutte le foglie cadono, muoiono. Cadono, muoiono gli uccelli. Cadono, muoiono le vite. Stanco, sono stanco. Vieni, desiderami, fammi vibrare. Oh, mia povera illusione, mia accesa ghirlanda. L'ansia cade, muore. Cade, muore il desiderio. Cadono, muoiono le fiamme nella notte infinita. Fiammata di luci, colomba di crete bionde, liberami da questa notte che incalza e distrugge. Sommergimi nel tuo nido di vertigine e di carezza. Desiderami, trattienimi. Stanco, son stanco, fuggi, allontanati, estinguiti. Non imprigionare la mia stella, la mia sterile testa nelle tue mani. Mi segnino la fronte le fruste del gelo. La mia inquietudine si sferzi con i venti dell'Atlantico. Fuggi, allontanati, estinguiti. La mia anima deve star sola, deve crocifiggersi, sbriciolarsi, rotolare, versarsi, contaminarsi sola, aperta alla marea dei pianti, ardendo nel ciclone delle furie, eretta tra i monti e tra gli uccelli, distruggersi, sterminarsi sola, abbandonata e unica come un faro di spavento. Di Pablo Neruda. Ma come fa? Veramente, cioè, un pochino di Rabarbaro, per favore, Rabarbaro. Cioè, io cercavo di fare dei momenti Fabio Volo, chiusura letteraria. Un po' di emozione. Cioè, qua veramente siamo coi pezzotti, cioè abbiamo cacciato l'artiglieria. Complimenti, complimenti, grazie. Posso fare una domanda alla maestra? Certo. In sintesi, è una presa a male questa poesia? Potrebbe sembrare, perché il mood, diciamo, del momento, ecco, non è proprio dei migliori, però come dicevo, è sulle passioni che si autoalimenta come una fiamma perenne. Poi sta a noi, ecco, far rimanere questa miccia sempre accesa, però speranza. Siamo secondo me siamo gli esempi noi, ecco, perciò. Però vogliamo lasciare pure ve la dedico. Una speranza ai bambini, la prossima volta ne porti anche una per i bambini. Va bene, dai, ci proverò, anche se vabbè. Sì, vabbè, anche se poi no, perché sai com'è, non vorrei fare concorrenza ad un'altra trasmissione di Radio Forte Prenestino, e quindi. Ma noi vogliamo il crossover. Va bene, se lo dici tu, maestro, allora. I bambini non vedono l'ora di conoscere Iron Man, con quella simpatia che lo contraddistingue. Grazie a Iron Man oggi per aver sottolineato qualsiasi cosa andasse male, compreso la diretta che non è stata diretta, che è stata comunque diretta egregiamente dalla redazione. Io vi ringrazio perché siamo praticamente alla fine, giusto il tempo di salutarci e dirci che la puntata è in podcast sul sito del Forte, www.forteprenestino.net. Alla prossima diretta di 100 Celle Avengers. Alla prossima, alla grandissima.